Quindi se ho capito bene ho tempo fino a 8:45. No, no. Innanzitutto vi chiedo di perdonare la mia assenza di domani. È iniziata dopo che è terminata, diciamo, la stagione congressuale delle CISL, è incominciata per l'appunto quella delle federazioni. Domani ce ne sono 3 e quindi ci alterniamo con i colleghi della USR. E prima che mi scordi, lasciatemi dire una cosa che poi alle volte mi sfugge, e cioè un ringraziamento per le cose che fate, che sono tante, molte sono emerse dal dibattito, quindi è molto lavoro ed è anche fatto bene ad ogni livello. C'è una collaborazione che proverò a dire qualche cosa, ma incominciamo a dire questo, che è doveroso ed è anche un piacere. Oggi il video e la relazione mi hanno, tra le altre cose, riportato un po' indietro nel tempo, e è sempre bello essere trasportati indietro nel tempo quando quel tempo parla di valori, di conquiste e anche, perché no, insomma, anagraficamente parlando, ti ricordo quando avevi qualche anno di meno. Io non ho vissuto tutto quel periodo, ho quasi 59 anni, fate voi i conti, ma una parte l'ho vissuta quando ero studente lavoratore, e la parte prima che non l'ho vissuta l'ho respirata. Ed era così potente quel momento che mi è stato sufficiente per impegnarmi nel sociale. Volevo con voi provare a fare una chiacchierata partendo da quel ragionamento, per provare insieme a sfatare alcuni miti e magari, se ne siamo capaci, anche a gettare in là la prospettiva. E il video era lungo, era bello, la relazione anche, quindi io ho provato a fare un sunto del sunto, vediamoci se ci si ritrova. Emergeva il tema dell'autonomia, vero? Credo non fosse facile in quell'epoca molto politicizzata essere autonomi, e credo che in particolare non lo era per noi, che pur avendo allora come oggi una compagine variopinta, diciamo, tutto l'arco costituzionale, abbiamo avuto per un certo numero di decenni governi monocolore che non erano poi forse così distanti da noi. Non era facile l'autonomia. Emergeva anche abbastanza in maniera chiara, io credo, anche il tema della confederalità. E allora, se cambiamo la parola e gli diamo un senso che a me piace di più, emergeva la solidarietà. Alcune immagini facevano vedere, cosa usuale ai miei, ai nostri tempi, che molte federazioni scioperavano per sostenere le ragioni dell'altra federazione. Era forte il tema dell'unità, forte e controverso. Abbiamo avuto la stagione interessante, bella, l'ho vissuta, pezzettino così, ma ce l'ho fatta, dell'FLM. Ma abbiamo anche vissuto, qualcuno lo diceva, la stagione dove ci dicevano che eravamo, diciamo così, venduti ai padroni, eravamo il sindacato dei padroni. C'era tanto territorio, se ne parlava poco, ma si praticava. C'era molto territorio. Si usciva dal lavoro, mica sempre, ma ogni tanto si passava in sede. perché c'era l'altro, il collega, l'amico, si litigava, si discuteva, si fumava la sigaretta. Non è che bisognasse fare notte, qualche volta anche. Ed emergevano delle parole d'ordine, diritti, lavoro, il genere, il femminismo. Cosa manca oggi, se potessimo, proviamoci, farlo, cosa manca oggi di tutto questo? Beh, quella prateria di diritti da conquistare, non vorrei essere travisato, poi mi correggo, ma quella moltitudine di diritti da conquistare, molti dei quali oggi stiamo perdendo, ma davanti avevamo una prateria immensa di diritti da conquistare. Perché? Beh, l'Italia del dopoguerra produceva un prodotto interno lordo doppio, mediamente doppio, di quello che oggi produce la Cina e che già ci spaventa. Il che cosa vuol dire? Che facevamo anche noi come la Cina, ci sfruttavano, lavoravano i bambini, non c'era istruzione, se non quando è diventata obbligatoria, una prateria davanti di diritti da conquistare. E siccome li conquistavamo, una grande autoaffermazione che ci spingeva in avanti ancora, sembrava non ci dovessimo fermare mai, una conquista dietro l'altra, sociale, politica, economica, di emancipazione per il genere, ma non solo. C'era cioè una speranza diffusa molto forte, quella speranza che bastava respirarla, anche se non viverla in maniera diretta, che ti faceva davvero battere il cuore. C'era una coscienza di classe, magari un po' ideologica, ma noi l'abbiamo contrastata, quella ideologica. Ma c'era una coscienza di classe, cioè c'era una consapevolezza che il mondo del lavoro, al di là degli slogan, aveva davvero un tratto di unità, non tanto ancora sindacale, ma quanto proprio individuale delle persone e poi collettivo. I tarsider scioperava per i ferrovieri per i tarsider, tutti e due per i metalmeccanici, insomma. C'era una massa critica, che era per l'appunto questa massa, diciamo così, del mondo del lavoro, desiderosa di informarsi, desiderosa di partecipare, desiderosa di costruire quelle prospettive che la speranza ci dava per progredire. C'era forse anche una politica che ci dava un po' d'esempio, cito De Gasperi, ma potrei citarne tanti, che prendeva l'aereo per l'America col cappotto rammendato. C'era un'etica praticata, non solo della politica, anche nell'organizzazione nostra. Non sempre si percepiva lo stipendio a fine mese, lo sapete bene voi. C'era quindi una partecipazione alla vita della comunità nei partiti, negli oratori, nelle zone. Che oggi non c'è più. Ma era tutto così facile? No, io credo proprio di no. Fare sindacato, parlo soprattutto degli inizi, fare sindacato emarginava. Io sono entrato al lavoro nel 78, quindi non dopo la guerra, Vi assicuro che nel 78 lavoravo in una fabbrica tessile, siccome ero un po' scapestratino e mi piaceva già andare a ficcare il naso, era una roba di 15 dipendenti con un proprietario di origine ebree e russe, chiuso la parentesi, quindi voglio dire, a conduzione familiare, per essere eufemistici, con il guardiano del faro che ti veniva a controllare in bagno quanto ci mettevi e che cosa facevi nel bagno. Siccome ero un po' scapestratino, sono arrivati a rinnovarmi il contratto in una fase abbastanza espansiva, 78 insomma, eravamo già dopo la crisi del 73, di una settimana. Io adesso no, ma prima ero gracile. Finito il turno, finiti gli straordinari, col ricatto di lasciarmi a casa, mi facevano caricare e scaricare dei camion da qua a là. Fare sindacato all'epoca emarginava, non era facile. Vogliamo parlare delle deleghe che non c'erano? Vogliamo parlare della paura che serpeggiava nei posti di lavoro quando tu andavi a parlare di associarti? Io me la ricordo che la gente scantonava un po', ma allontanati, perché guarda che ci stanno guardando. E i governi, se non lo ricordo male, all'inizio non è che ci ascoltassero così tanto, anzi, se non mi sbagliano, ordinavano delle belle cariche della polizia. Credo che non siamo in questa sala, ci sia qualcuno che ha preso le botte dalla polizia, o no? Ok? E l'Europa? Adesso è un'Europa difficile, allora invece era un'Europa facile. Era divisa in due blocchi, con confini non solo geografici nitidi, a proposito di muri, ma con confini politici, ideologici, seri, altro che Europa, Stati Uniti d'Europa. E poi l'emancipazione. Poi l'emancipazione che ha dilagato fino a 20-25 anni fa, circa. Ma emancipazione per chi? Per noi sicuramente. Per l'Occidente può darsi, ma per il resto del mondo no. Perché noi, mentre noi vivevamo la stagione dell'emancipazione, per chi di noi aveva la TV, pochi, c'erano le immagini che rinviavano paesi lontani di grandi masse di popolazione, io ricordo l'India, la Cina in particolare, ma poi l'Africa, dove le persone venivano filmate mentre morivano di fame per strada. Quindi l'emancipazione c'è stata, ma ha riguardato noi. Oggi la globalizzazione ci interroga, io credo, anche su questi aspetti. Se facessimo una prova, io credo che, dimmi la prima cosa che ti viene in mente quando parlo globalizzazione. Io sono convinto che la maggior parte, magari non di noi che siamo addetti ai lavori, ma di cittadini, direbbero delocalizzazione, globalizzazione, delocalizzazione. Vero? Ma globalizzazione ha anche voluto dire emancipazione, non per noi, ma per gli altri, per tutti quei popoli che morivano di fame per strada. Miliardi di persone che hanno vissuto, stanno vivendo, sulle nostre spalle anche, un riscatto sociale non di poco conto. Io dopo 10 anni di crisi incomincio ad avere difficoltà a chiamarla così. Incomincio a pensare che ci sia qualcosa di strutturato in tutto questo. Incomincio a vedere che le grandi conglomerate straniere si stanno comprando l'Occidente e non fanno più i pupazzetti che si rompevano quando eravamo bambini, vi ricordate? Made in Hong Kong. No, fanno macchine, televisori, frigoriferi, lavatrici, software, know-how, è lunga qui la questione, magari poi mi sbaglio. Allora io credo che mentre proviamo a ridistribuire il reddito bisogna incominciare a considerare il fatto che vada a blocchi, almeno comunità europea sto parlando, che vada ridistribuito anche il lavoro. Perché non so, non sto facendo affermazioni, non sono un economista, ma non so se noi torneremo a quei livelli, non quelli là che abbiamo respirato. Mi accontenterei di tornare ai livelli del 2008, ma non lo so mica se ci torniamo, eh. Che fare? Beh, incominciare a fare un'azione culturale potente. La stiamo già facendo, ma non basta. Dobbiamo smascherare le bugie. Le bugie dei Trump, delle Le Pen. A casa nostra ci dobbiamo accontentare di Salvini e dei 5 Stelle. Bugie che chi abita a Torino o a Roma incomincia a capire come gira la frittata, eh? Bellissime parole, ma poi. E dobbiamo incominciare a promuovere la verità anche noi. E qual è la verità? Beh, io non ho mica la ricetta, però se è vero che noi stiamo vivendo questa globalizzazione indifesa, perché c'è dumping? Come mai c'è dumping? Come mai questi, le imprese vanno là? Perché sfruttano le persone, perché sfruttano l'ambiente. Ed è un tema, questo dell'ambiente, che se ci abbiamo messo una pezza in Europa, non ce la stiamo mettendo nel resto del mondo, ma l'Europa nel mondo è grossa così. Le conseguenze di ignorare il dumping ambientale di queste grandi, nuove grandi potenze costerà malattie per i prossimi decenni ai figli e ai nipoti nostri. Allora ecco che l'opera in piccolo della cooperazione internazionale come l'ISCOS, in piccolo neanche tanto, eh? In Piemonte abbiamo 34 progetti nel mondo, l'opera insomma di cercare una buona volta per tutte di capire che siamo un'unica umanità. Al di là che siamo no credenti, siamo davvero concatenati. Nessuno si può salvare o nessuno può fare qualcosa di diverso da quello che sta nella natura. Recuperare i diritti, ogni diritto che recuperiamo al di là dei nostri confini, è un po' di dumping in meno e qualche azienda delocalizzata in meno. La comunità europea, abbiamo detto che prima non c'era, adesso c'è. Anche qui basta bugia. Ma qual è la verità? La verità è che la dimensione competitiva oggi, con questi nuovi giganti, non la gioca più il singolo paese. Sì, la Germania è più forte di noi, certo. Vorrà dire che resisterà 6 mesi in più. Ma ce l'abbiamo l'idea di che cos'è un mercato da 1.300.000 persone? Cioè, con una quantità di ingegneri laureati, la dimensione competitiva è quella. E noi dobbiamo lottare. La CIS sta facendo una lotta politica. Io vorrei che lo dicessimo questo, ma non tra noi, agli altri, perché i nostri concittadini devono incominciare a capire, per non essere presi in giro, che sull'Europa bisogna fare di più, perché se stiamo fermi non rimaniamo così, deimplodiamo di nuovo, diventiamo di nuovo singole nazioni ed è finita. Quei due blocchi là non ci sono più, non frega più niente all'America della fine che fa l'Italia. Siamo capiti? non interessiamo più. E l'altra verità è che la comunità europea dobbiamo fare in modo assolutamente di fare capire ai decisori, a partire da quelli nazionali, che bisogna che cambi verso, lo dice bene il manifesto dei 10 punti, che è unitario, che è CES, ma che è tanto CISL. Il Fiscal Compact, la comunità europea dei bilanci, non ha portato nessun beneficio a nessuno, se non alle banche. Ma a me, io non so a voi, ma non mi interessa molto questo aspetto. Bisogna fare in modo che i cittadini europei, a partire da quelli italiani, a partire di quelli dove viviamo noi, dove andiamo al supermercato, dove parcheggiamo l'auto, con un'Europa che magari cambia, abbiano un rapporto un pochino più fiduciario. L'Europa si deve rendere un po' più simpatica, un po' più utile. Oggi non è successo e deve succedere, perché non ci rimette l'Europa in quanto tale, ci rimettiamo noi come cittadini. Noi abbiamo avuto a che fare, vengo ai giorni nostri, abbiamo avuto a che fare in questi 20-25 anni con governi un po' di tutti i colori, anche un po' variopinti, perché io non sono un qualunquista e ho rispetto della politica, perché così mi hanno insegnato, ma ho rispetto di una certa politica. Non ho rispetto per la politica dei corrotti e dei cinici. Ma si parla poco di un aspetto che però noi conosciamo bene, qualche intervento, la relazione stessa l'ha rilevato. Certa politica è anche incapace. La politica, il politico non si può inventare. Non può, come è successo, nascere dall'oggi al domani. Fare politica è competenza, è dedizione. I politici che nascono per prendere la sedia a qualcun altro provocano dei guai. Guai che alle volte noi riusciamo a rimediare. Prima tra i partiti. Partiti, ragazzi, ma dove sono i partiti? Ha iniziato Berlusconi in Forza Italia, è andato avanti Renzi nel PD. Ma che partiti? Decide uno. Decide uno per tutti. Poi il Parlamento. A colpi di fiducia, sono 20 anni che il Parlamento non conta più niente. Nulla. Nulla. A parte che sono anche un po' di anni che non andiamo più a votare, questo è un altro problemino. Quindi non è un problema del sindacato. Dovrebbe essere un problema del Paese, perché si sta cercando di smantellare un modello di democrazia. Dicevo, veniamo a noi. Questi ultimi 2 anni c'è stato un combinato disposto che io credo e nel contempo mi auguro che non torni più. Le vicende interne nostre e le vicende esterne. Chi più ne ha più ne metta. Abbiamo reagito. Si potrebbe dire molto, guardate, ne abbiamo già parlato. Diciamoci questo, abbiamo reagito. Abbiamo fatto insieme un percorso, c'è stato un prima e ci sarà un dopo. Non ci dobbiamo fermare. Anna Maria non è arretrata di 1 millimetro e noi con lei. E questo è un motivo d'orgoglio. Io vorrei che voi foste orgogliosi per quello che abbiamo fatto insieme. Il Piemonte ha dato un bel contributo. Un bel contributo, ha sostenuto politicamente in momenti non facili, non era scontato, perché ce le abbiamo anche noi dentro una bella serie di personaggi, non era scontato, ma ce l'abbiamo, io credo, fatta. L'unità, A me piace di più il pluralismo, per esempio. Io penso che il pluralismo sia una ricchezza. Colpire uniti alle volte serve, lo abbiamo fatto. Il problema, senza che me ne voglia l'amico, perché davvero qui siamo, io mi sento in famiglia, spero anche voi con me. Il problema della CGIL non è tanto quello che dice. Dice le stesse cose che diciamo noi, può darsi. Il problema è quello che fa, che è un po' diverso alle volte. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che tutte le difficoltà che abbiamo avuto ci hanno rinforzato, ci hanno fatto in parte ritrovare quell'identità, quell'orgoglio di essere diversi, e ci hanno capiti, perché sono gli altri, la CGIL e la UIL, che sono venuti dietro a noi, non il contrario. Credo che per chi fa politica come noi non sfugga, diciamo, la differenza. E sulla confederalità dobbiamo andare avanti. La riorganizzazione non è finita, io non la considero finita. Abbiamo innanzitutto confermato la confederalità. Non ho dimenticato, credo di non essere l'unico, che fino a un paio d'anni fa c'era chi legittimamente, non fuori il governo Renzi, a cui noi andavamo benissimo come sindacato, basta che stessimo nella cuccia. C'era anche legittimamente dentro di noi chi pensava che la confederalità fosse una roba inutile. Io credo, per le cose che ho provato a dire, che non è proprio così. Quello che aggiungo è che ci vuole una confederalità sostenibile, una confederalità possibile, che costi meno possibile e che sia utile. E allora va completato il lavoro di riorganizzazione, secondo me. La confederazione non può, ovviamente non può, fare gli accorpamenti. Attengono alle federazioni queste scelte. Però, con coraggio, Anna è andata avanti un anno e mezzo a proporre. Io vorrei considerare questo tema non archiviato, ma congelato. Io credo che se gli amici della Confederazione lo vorranno, a partire dai territori, con un processo più democratico di quello che stavamo per subire, con altri e secondi fini ben diversi da quello che ci occorre, perché guardate, qualcuno parlava di industria 4.0, vabbè, che poi è trasversale. È vero o no che ridisegnerà completamente i confini di aggregazione del lavoro? È vero o no che già adesso le federazioni hanno una dispersione organizzativa costosa e faticosa, perché le grandi concentrazioni di lavoro non ci sono più? I colleghi, gli amici, le amiche prendono l'auto, due qui, tre là, dieci dall'altra parte. Per quanto tempo riusciamo ancora ad andare avanti così? Quelle filiere che abbiamo conosciuto lì sono ancora così? Non succede alle volte che andiamo tutti in uno stesso posto dove l'iscritto ci dice: ma siete già passati? No, ma è un'altra federazione. E ci sono un sacco di posti dove non riusciamo a passare. Ma se lo facciamo con uno scopo vero, utile, possiamo riconsiderare la stagione degli accorpamenti non dimenticata? Perché l'alternativa, a meno che qualcuno non ci faccia piovere i soldi dalla testa, è mettere in discussione prima o poi uno dei tre livelli congressuali, non ne vedo altre io, e allora quella sarebbe sì una discussione antipatica. I servizi, e ho quasi finito. Sui servizi io vi dico questo: per Personalmente continuo a pensare quello che pensavo 5 anni fa e l'ho detto a tutti i livelli. E che aspettare le botte dei governi che si sono succeduti sui servizi non sarebbe assolutamente servito a farli desistere dal tagliarci le risorse, perché è una evidente scelta strategica. Le guerre non si sono mai vinte perché io ne ho ammazzato uno più di te, si sono vinte perché tu hai individuato le mie linee di rifornimento di viveri o di munizioni e ci stanno ammazzando elegantemente. Se qualcuno avesse ancora bisogno che si tratta di una scelta politica, questi 100 milioni che per noi significano vita o morte, in un bilancio da 1.200.000 miliardi di euro, quando dalla sera alla mattina Padoan ha trovato 20 miliardi di euro di nuovo in tasca alle banche, mi pare di poter dire che sono una scelta. Quindi, a mio parere, continuo a pensare che noi, questo sì unitariamente, dobbiamo dare battaglia in tutti i modi, se serve anche con la piazza, eh? E nel frattempo io credo che una volta per tutte, almeno questo vale per me, senza presunzione, bisogna fare due considerazioni. La prima: dentro il ragionamento dei tagli, i tagli ai patronati sono, secondo me, anche non costituzionali, perché lì non ci sono i soldi dello Stato, lì ci sono i soldi dei lavoratori e allora non li devono poter toccare e bisogna avere più coraggio. Donatella, il 27% è statisticato e te lo pagano. E allora sai che cosa facciamo? Facciamo pagare ai non iscritti e a chi non si vuole iscrivere, e chi non si vuole iscrivere va da un'altra parte. Così almeno non avremo più gli uffici intasati da chi non si vuole iscrivere e dobbiamo mandar via i nostri iscritti. E sul CAF, io vorrei che apprezzaste lo sforzo che l'USR, ma soprattutto le unioni sindacali territoriali hanno fatto nel non aumentare la tariffa degli iscritti, che a 17 euro è rimasta ed è la tariffa più bassa d'Italia. Valorizziamo queste cose perché le abbiamo fatte insieme, quindi valorizziamole. La Confederazione si occupa anche di produttività di sistema. Col modello relazionale nuovo proviamo a rilanciare la produttività d'azienda, laddove l'azienda è in piedi. Ma c'è una produttività di sistema, fatta di fisco, di pubblica amministrazione, di previdenza, di turnover, che non c'è più. Nell'attesa di posti miracolistici noi ci accontentiamo, siamo pragmatici, di un po' di sano turnover, che non c'è più. E questa è la motivazione per cui... Ma se è tutto così chiaro, no? Come mai? Perché penso che chiaro lo sia, no? Ma come mai, come dire, i governi non si nascondono neanche più? Una volta si nascondevano, adesso neanche più. Lo fanno proprio palese. Come mai tutti sono attraversati da una sorta di neoliberismo praticato? Poteri forti, e più li combattono i poteri forti e più li aiutano. Boh, chi lo sa? Come mai succede tutto questo? Come mai non c'è quella roba lì? Come mai? Io insisto nel dire che manca una coscienza di classe. Manca la consapevolezza che il mondo del lavoro, il mondo dei pensionati, è il prodotto interno lordo. Il mondo del lavoro è la nazione. Noi siamo la nazione. Ma non ce ne rendiamo abbastanza conto. E siamo anche quelli che votano. Allora, la nostra azione, quella confederale, quella fatta di tutti noi, quella fatta da voi, io credo che sia diventata urgente nel paese, prima che inconsapevolmente facciamo delle scelte irreversibili. Irreversibili. E la FNP da questo punto di vista fa e ha fatto molto. Siete, stato detto, la categoria più confederale, ma che funzioni in andata non c'è dubbio, ma funziona anche in ritorno. C'è la solidarietà di tutti gli altri? Credo che qualche spazio di miglioramento ci sia. E proverò ad impegnarmi un po' su questi temi, lo dico ironicamente un po'. Noi sui servizi abbiamo promosso, io sono nato come delegato dei servizi, perché questo benedetto legame poi alla fine lo fa il delegato. È il delegato che c'ha gli iscritti, non è il segretario generale. Abbiamo promosso un corso per creare il delegato dei servizi. 150 delegati in Piemonte. Abbiamo promosso un corso per fare in modo che le accoglienze siano arricchite dal valore aggiunto che il delegato degli attivi porta e degli iscritti che può fare, perché i nostri servizi producono iscritti, sì, ma ne potrebbero produrre molti di più se l'impegno che ci mettesse l'FNP ce ne mettesse una parte, anche meno rilevante. Tutti gli altri, pensate a che risultati potremmo raggiungere. Noi talvolta, soprattutto noi della CISL, che siamo, come dire, un po', tra le altre cose, anche modesti, ed è una bella cosa, è una virtù essere modesti. Io credo che noi siamo per molti lavoratori, pensionati, per molti disoccupati, per molti disorientati, per molti che si stanno facendo imbambolare da 25 anni a questa parte, da chi vende fumo. Io credo che noi per questa moltitudine di persone siamo e rappresentiamo molto più di quello che pensiamo di essere. Allora credo che questa consapevolezza, che può ritornare, perché io quello che ho cercato di dirvi, che non era facile allora come non lo è ora, e che bisogna riprendere a fare quelle robe lì, perché ce n'è bisogno, perché quella prateria di diritti davanti non c'è più, ma dobbiamo costruirne di nuovi. La formazione per chi perde il lavoro, la partecipazione, diventeranno, sono già le nuove frontiere della lotta sindacale. È tutto molto cambiato. Ma se io guardo quel video, e vi ho ascoltati oggi, ma non solo oggi, credo che molto è cambiato, ma noi no. E se anche qualche anno in più ce l'abbiamo, il cuore è ancora molto giovane. Grazie.